Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Se la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Finalmente sono tornati i funamboli. Certo, in questo studio un po' vuoto, un po' misero qui a Radio 24 a Milano. Veronica, buongiorno. Perché ti lamenti? Che c'è che non va? No, tanto la voce senti è migliorata un po', sto guarendo. Però hai fatto l'aerosol? Ho fatto l'aerosol. Bravo. Interessa a tutti gli ascoltatori, ho messo anche il Clenil e quindi siete perfetto. Tutti siete informati. No, erano tutti molto preoccupati, sì, certo, ieri. Certo. Oddio, adesso mi diranno che prendo soldi dalle case farmaceutiche, ma magari. Sì, chiaro. Magari. Ieri ci ho pensato prima di dirti: prendi il Clenil e il Fluibron. magari. Case farmaceutiche. L'IBAN mio è IT. Allora, cara Veronica, buongiorno e ben ritrovata. Siamo qui. Eccoci. Siamo qui alle 9:09 con Peter Bescapelli alla regia, la nostra redazione Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi, i nostri funamboli e poi voi funamboli, cari ascoltatori. Oggi di che parliamo? Tante cose, sai Veronica. Mamma mia, oggi devo dire che sulla fune è proprio pieno di roba, rischiamo di cadere, roba. Sì. No, non cadremo mai, non cadremo mai. Parliamo di immigrati, di migranti, di jussoli, subito. Poi Beh, parleremo. Che poi è all'ordine del giorno su tutti i giornali oggi, no. Eh? Come no? Anche perché Alfano ha detto no. Ma a me ha colpito una cosa, questa cosa di Alfano. Ha detto, può darsi anche che la legge, in sostanza, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, può darsi anche che la legge sia giusta, ma in questo momento approvare anche una legge giusta rischia di passare come un favore alla Lega. Ma io dico, ma se è giusta, ma caro governante, falla questa legge. La ripete da un sacco di tempo Alfano, che è la legge giusta nel momento sbagliato e quindi rischia di essere un favore alla Lega. In realtà è il partito di Alfano, Alternativa Popolare, sa perfettamente che si avvicinano le urne, che cosa voglia dire questo, sì. Non ci ha dato saperlo ancora dal punto di vista della legge elettorale, e sanno che se loro approvano una legge di questo genere, i voti perdono che dovrebbero voti. Prendere, addio. Ma ho capito, ma è il sunto, è il succo dell'impotenza della politica, cioè ritengo che questa legge possa essere giusta, ma in questo momento se la approvo perdo voti, ma ci rendiamo conto? Ma se per questo parliamo di un partito che non esisteva in Parlamento nel momento in cui questa legislatura è cominciata, cioè è nato in Parlamento, ha diritto allo ius soli in Parlamento? C'è un problema anche lì di nascita, documenti. Guarda, oggi non so chi, il Corriere della Sera credo conta i 562 parlamentari tra Camera e Senato che hanno cambiato casacca dall'inizio della legislatura, dando vita a nuovi partiti, nuove forme politiche, per carità, tutto legittimo, tutto secondo la legge, però abbiamo votato una cosa 5 anni fa e ci ritroviamo un Parlamento un po' cambiato. Diciamo che nello specifico della formazione di Alfano è anche una formazione che condiziona moltissimo le decisioni del governo, sì. Perché ha fatto l'ago della bilancia, quindi su tantissime cose ha messo il veto e questa è una delle più emblematiche. Cioè, salace oggi Iena sulla stampa. Alfano ha paura di perdere voti. Quali? Il suo? Vabbè, no, adesso non ci vogliamo, no, non è per accanirci su Alfano, no, chiediamo, cari ascoltatori, chiamateci 800 24 00 24. Siete contenti, visto che ne abbiamo parlato, che questo ius soli pare sia bloccato ora dal veto di Alfano? Vedremo, non è detto che sia così, ma siete soddisfatti oppure è una cosa che vi dà fastidio? Secondo voi questa legge va fatta? È emblematico che non ci sia nessun nesso di proporzionalità diretta tra la quantità di voti che uno prende e quanto può condizionare le leggi che vengono fatte. Questa sì. È... No, e soprattutto quanto possa reputare una legge valida, ma quanto sia opportuno politicamente approvarla in questo momento. Comunque, certo. Non parleremo solo di questo, parleremo di furbetti nella scuola. Di docenti ce ne sono purtroppo che prendono la cattedra e poi si mettono in malattia. Avremo una denuncia specifica di un funambolo scolastico che ci dice non se ne può più. E poi tanti altri temi. Dai, ma iniziamo. Yeah. per esempio, cara Veronica, a me colpisce molto. Parleremo poi alle 10 con una donna che ci verrà a trovare in studio, Rania Ibrahim, nata in Egitto ma italianissima, nel senso che ha 2 anni credo è venuta in Italia. Sì. Ha scritto un romanzo che in pratica parla di Islam, donne, donne, sesso. Affrontando queste tematiche in maniera molto profonda, molto diretta, parleremo poi con lei. Con tutte le sfumature del caso, cioè senza stereotipi né da un lato né dall'altro, certo. Molto interessante. E parleremo con lei, Rania Ibrahim. Ma prima vogliamo salutare un sindaco e un sacerdote, il sindaco è il sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, buongiorno, siamo nel centrodestra perché è una lista civica, insomma Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega Nord, Area Popolare e questi sono quelli che l'hanno fatta eleggere, sindaco, possiamo dire così? Esattamente sì, io non ho tessere di partito ma sono stata appoggiata da una coalizione di centrodestra. Quindi c'è anche Alfa. No, in questa coalizione. sì, ho ascoltato prima. E adesso le chiediamo. Salutiamo anche Don Massimo Biancalani, è diventato quest'estate celebre, non sappiamo se con suo giovamento, sua gioia oppure no, è prete della parrocchia di Vicofaro, Pistoia. Buongiorno Don Massimo. Mio malgrado. Mai un bagno in piscina ha reso tanto celebre qualcuno, dopo Anita Ekberg nella fontana. c'è Don Massimo. C'è stato solo del bagno in piscina, c'è stato anche altre cose purtroppo. Don Massimo, certo. Ricordate, è colui che ha portato dei migranti in piscina, ci sono state le proteste di Forza Nuova, andiamo alla messa a vigilare, minacciato, eccetera. Adesso ci racconterà come. Il problema è che sono poi venuti effettivamente a me. Ma adesso ci racconterà come va. Intanto, sindaco Caprioglio, dal punto di vista politico, lei la capisce questa idea? Sarà, immagino, soddisfatta sullo Ius Soli, su un possibile stop, essendo lei di centrodestra, ma capisce questa posizione di Alfano a dire... Ma guardi, io in questo momento sto amministrando il comune di Savona, quindi mi sento più sindaco che politico, purtroppo, lo dico purtroppo perché la politica è molto lontana dalle difficoltà poi che ogni sindaco vive nel proprio territorio, dove non abbiamo più risorse, ma lo Stato ci chiede comunque e ci impone di fare determinate cose e noi non riusciamo più. Infatti il comune di Savona è un comune in predissesto, come moltissimi altri comuni di Savona, che sta attendendo da mesi che gli venga approvato un piano di riequilibrio finanziario per spalmare questi. Noi abbiamo 14 milioni di disavanzo in una decina d'anni. E con queste problematiche dobbiamo affrontarne molte altre dei nostri servizi. Sì, insomma, più sindaco non guarda tanto al Parlamento, ma giustamente guarda la sua. Ma guardi, città. Io trovo che talvolta la politica è miope, ovvero proprio per far consenso perde di vista completamente i bisogni dei cittadini, in questo caso dico dei cittadini, dei miei savonesi, si perdono completamente di vista per far consenso e il consenso si deve ottenere dopo un anno, dopo 2 anni. Però Veronica, sai che il nostro sindaco, il sindaco di Savona, ha chiesto, e è una norma regionale credo, di poter sapere quali sono tutte le strutture che intendono ospitare migranti. Ci fa sapere perché, sindaco, lo vuole sapere lei? Vuol prendere dei provvedimenti preventivi? Ma per il semplice fatto che la questione migranti, e io parlo di un problema, non di un'emergenza, perché sono troppi anni che l'abbiamo questa problematica, quindi ormai non è più l'emergenza, è un problema che si è cronicizzato. Io mi sono trovata l'anno scorso, al momento del mio insediamento, a andare a fare un saluto di cortesia al prefetto con il quale ho ottimi rapporti e scoprire che sulla mia città si stava per insediare un'app, una struttura quindi che prende massimo una 70 di migranti per 24-48 ore, e per via di un accordo fra prefettura e curia. E come questo accadono molte altre situazioni del genere, per esempio con i CAS, i centri di accoglienza straordinari, cioè un sindaco non è in grado di sapere chi ma una volta che lei lo sa, cioè che sa che ne so, quella struttura vorrà ospitare i migranti, cosa... Allora innanzitutto ho la possibilità di mappare chi c'è, perché per esempio noi abbiamo uno SPRAR e lo SPRAR è... funziona bene, perché sappiamo, lo gestiamo noi, non subiamo il problema ma ce lo gestiamo. In questo modo posso capire chi ho sul mio territorio e in qualità anche di autorità sanitaria locale posso monitorare anche queste questioni, perché per esempio dopo pochi mesi dal mio insediamento c'è stata una sospetta, un caso sospetto di meningococco portato da migranti, e io in quel momento lì non sapevo assolutamente dove erano i migranti. No, perché il timore che lo voglia fare per controllare, Veronica. No, è chiaro, perché poi leggevo che ci sono anche delle sanzioni pecuniarie per chi non dovesse dichiararlo, che arrivano fino a 15.000 euro. Quindi appare un po' come un deterrente dall'idea di voler ospitare. Ma no, guardi, assolutamente no, perché per esempio faccio un esempio, io qualche mese fa ho proposto in occasione di un incontro col ministro Minniti uno SPRAR per i minori stranieri non accompagnati, primo in Italia a livello distrettuale, che è stato apprezzato molto, perché questo è il modo per gestire i problemi. Noi come Comune di Savona abbiamo già lo SPRAR adulti attivo, abbiamo circa 230 presenze solo nel Comune di Savona e quasi 1.000 in tutta la provincia. Cioè, stiamo cercando di risolvere per esempio lei sindaco oggi che pensa di questo piano che sta proponendo il Viminale per tentare di integrare i rifugiati, cioè, nello specifico parliamo dei profughi e non dei migranti economici. Se sono profughi effettivamente vanno integrati. Per esempio, noi abbiamo fatto dei protocolli di lavoro con i migranti che ci sono qua, perché io credo che il lavoro comunque nobiliti una persona, cioè togliere il lavoro a una persona e togliere la dignità a un essere umano, per cui abbiamo fatto i protocolli lavoro e un 10% dei migranti che abbiamo sul nostro territorio l'hanno accolto e hanno lavorato, e da un anno che stanno lavorando. Quindi lei dice questi vanno integrati così, però sentiamo un attimo anche Don Massimo, perché altrimenti è lì, tra l'altro lei ha citato varie volte il sistema SPRAR, lo diciamo per gli ascoltatori, il sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati gestito dal Ministero dell'Interno in collaborazione con Regione, Comuni, enti locali. Don Massimo, allora, è passata una brutta estate, come va adesso? Intanto la chiamano, la seguono. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, il servizio, l'accoglienza che noi portiamo avanti nelle mie due parrocchie è un'accoglienza che va anche oltre l'accordo con la prefettura, perché siamo un po' quello che vuole Papa Francesco, non una chiesa ospedale da campo, quindi le porte sono nostre, porte sono aperte e aperte appunto ad una situazione che è sempre più emergenziale, cioè dei ragazzi che vengono esclusi o che terminano il percorso d'accoglienza, che inevitabilmente vanno a popolare quello ormai quei 500.000 e oltre persone che vagano ormai per le nostre città e che ogni giorno perlomeno qua a Pistoia da me bussano e chiedono aiuto, un tetto, un pasto. Sì, ma lei è un po' più tranquillo, no? Cioè, si fanno vivi ancora quelli di Forza Nuova, qualcuno, oppure no? È scemata l'attenzione, mi sembra, sul campo. Adesso l'attenzione è che, io credo, da tempo in realtà, a me è successo questo fatto perché è da tempo che sono attenzionato, perlomeno nella nostra zona, qua in Toscana, per varie nostre iniziative, credo di essere sempre attenzionato. Credo anche poi la questura abbia messo in campo un programma di attenzione. La tiene d'occhio, di protezione. Ma le volevo chiedere, Don Massimo, rispetto a quella, una delle critiche che le mosse Forza Nuova, no? Che fu secondo me una delle più forti, no? Dicendo che lei doveva occuparsi unicamente del bene delle anime e doveva fermarsi lì e non occuparsi della gente e dei particolari pratici della vita. Lei su questo come ha replicato? Cioè, qual è la risposta? Questo punto si denota il fatto che non c'è alcuna preparazione, purtroppo questa è molto diffusa, religiosa, perché il prete può fare anche politica, se politica si intende l'attenzione all'umano, no? Alla città, al sociale. La Chiesa ha anche una dottrina sociale, la Chiesa non parla soltanto di anime o di questioni morali che riguardano la sfera della vita personale. Anche un insegnamento da sempre, soprattutto con il Concilio Vaticano II, su questioni sociali, riguardo alla pace, pensate alla recente anche encica del Papa sull'ecologia, 15 anni. Perché il prete fa anche un politica, però le giro questo messaggio che arriva al 349-238-6666, scriveteci. È un messaggio anche provocatorio, se vuole, Don Massimo Biancalani. Mi dice, grazie a Don Massimo, a gente come Don Massimo, che la destra estrema poi avanza. Grazie, amico prete. Lei che replica? No. Allora, io credo, ho detto più volte, che se noi siamo in questa situazione in cui cattiveria, egoismi hanno sempre più campo, soprattutto rispetto adesso ai migranti, che sono ormai il capro espiatorio di tutto, c'è crisi economica, è colpa dei migranti, piove ormai, è colpa dei migranti. Io credo che questa situazione sia dovuta al fatto che non abbiamo parlato a sufficienza in questi anni. Ci metto anche la Chiesa. In cui negli ultimi 20-30 anni questi argomenti non sono stati trattati nelle parrocchie, nei gruppi, soltanto con Papa Francesco è ritornato un po' questa disposizione sociale della Chiesa. La politica è quella che è, la scuola, anche io sono anche insegnante, purtroppo siamo anche qui fragili nella formazione civica dei giovani, quindi si è creato un vuoto. C'è una disattenzione. Vuoto prende campo. Però cara Veronica, sai oggi cosa scrive Repubblica? Perché a me questo si è colpito, visto che non parliamo di politica a livello parlamentare, ma di fronte al Fano che blocca lo Ius Soli e Gentiloni cerca la sponda in Vaticano. Ma stiamo parlando di una legge dello Stato italiano o no? Però questo è molto significativo, perché si commentano le ingerenze della Chiesa su tante tematiche, no? Avendo un'idiosincrasia su questo aspetto, temi si risviluppa il bisogno della laicità dello Stato. Anche qui c'è un'ipocrisia profonda da parte dell'opinione pubblica. La laicità dello Stato ci va ovunque, ma ti pare che cercare le sponde in Vaticano, ma con tutto rispetto per il Vaticano, ma cosa c'entra in una legge dello Stato italiano? Io ho ancora la bellezza di stupirmi di fronte a queste cose. Capisco che in Italia magari no. Però guarda che ci sono tanti ascoltatori. Ferdinando c'è da Roma. Buongiorno Ferdinando. Buongiorno. Che ci vuole buongiorno. Dire? No, io vorrei dire una cosa semplicissima. L'uscita di Alfano è controproducente, perché lui dice non la facciamo adesso in prossimità delle elezioni, perché possiamo fare un favore alla Lega, ma sottintende la faremo dopo, quando vinceremo le elezioni. È assurdo. Cioè sottintende che è una legge che lui approverebbe. Peggiora la situazione. Io non sono favorevole a parte questo, però non interessa, perché sono una persona singola. Però lui dice non la facciamo adesso, però la faremo dopo se vinciamo. È assurdo. Perché questo fa parte di un colpo al cerchio e uno alla botte. È la posizione di Alfano per non perdere voti. Tutti quelli che non hanno una posizione chiara rispetto a un tema dicono non adesso, dopo, intanto per queste elezioni no, così favoriremmo la Lega, però domani lo facciamo, e via dicendo. Grazie Ferdinando. Restiamo a Roma, c'è Fabio, buongiorno. Buongiorno dottor Mila, buongiorno Veronica, complimenti per la trasmissione. Allora, innanzitutto dico, sono contrario allo Ius Soli, anche se, come dicono molti, è una legge futuristica. Tutta l'Europa dell'Est e ora anche la Germania si sta spostando con i populisti. Noi da buoni italiani, come diceva Veronica poco fa, continuiamo a dare una botte al cerchio e una alla botte. Ho letto stamattina su Repubblica praticamente che vogliamo dare casa, lavoro e quant'altro a 68.000 profughi. E la preoccupazione principale appunto del governo italiano è lo Ius Soli. E continuiamo così. Mi auguro solamente che finalmente Kim e Trump litigano davvero sul serio, magari tirandosi qualche bomba, così magari rimischiamo. Che disfattismo, Fabio, che disfattismo. Speriamo proprio di no, la prendiamo come una chiosa ironica. Speriamo che non vada così. Però io vorrei capire dal sindaco Caprioglio se Don Massimo Biancalani, che fa politica nel senso di occuparsi anche della dottrina sociale della Chiesa, sbaglia, oppure anche un sacerdote ha il dovere, al di là di quello che ha fatto come posizione. Ma guardi, secondo me fare politica, se la intendiamo veramente come la intendevano i greci, è fare il benessere della collettività e contribuire al benessere della collettività, quindi benvengano tutti, perché è un sacerdote, ma è anche un cittadino, è un uomo, cioè il cittadino deve avere legami col suo territorio. deve impegnarsi per il suo territorio. Io quando ho scelto di scendere in campo l'anno scorso l'ho fatto perché erano da anni che giravo le scuole italiane parlando di cultura del rispetto, e nella cultura del rispetto c'è anche questo, c'è rispetto per l'altro, però bisogna rispettare tutti. E quello che, quindi, quando parlo di questa ordinanza, quando parlo della richiesta che ho fatto sulle emergenze sanitarie di poter avere contezza di quello che accade sul mio territorio, è proprio per questo, perché io rispetto i migranti ma rispetto anche i miei cittadini. Quindi certo. Nel momento, prego. Ma infatti credo che uno dei punti nevralgici della questione è che si tenda sempre a vedere gli uni contro gli altri, che è anche un po' uno dei problemi che si è posto a Don Massimo, per cui molti hanno detto: perché porta i profughi in piscina e non ci porta i poveri italiani? E su questo il problema è sempre che diventa una guerra tra due poli diversi, no? Esattamente. Infatti quello, per esempio, la problematica nostra del insediare un hub in un centro, in un quartiere della mia città con già in estrema difficoltà, era proprio questo, perché io avrei avuto per le persone italiane in difficoltà abitativa, non posso permettermi di avere dei container refrigerati in estate, quindi queste persone sono in mezzo alla strada, invece avrei avuto i migranti con i container nuovi che arrivavano refrigerati in estate e riscaldati in inverno. E come lo spiega ai miei cittadini una cosa del genere, per esempio? Allora, è uno, certo, dei tanti esempi. Dovere tenere insieme gli interessi di una collettività non è facile. Don Massimo Biancalani pensa di farlo anche così, curandosi delle persone che lui vede, immagino, Don Massimo, come le persone che non hanno nulla, le persone che sono in difficoltà, che hanno bisogno, a cui aprire le porte. Ecco. Sì, chiaramente. Posso precisare un attimo? Ecco, chiaramente non è che come parrocchia abbiamo fatto la scelta dell'Africa. Chiaramente affrontiamo un'emergenza, stiamo cercando di dare una risposta a questo tipo di emergenza, ma siamo aperti anche alle povertà dei nostri concittadini. Infatti stiamo ospitando non poche persone senza fissa dimora. Italiani. Oltretutto c'è un'anomalia, Don Massimo, che è quella che si tende a lamentarsi anche di quanto queste persone fatichino a integrarsi, possano essere socialmente pericolose, quando invece si fa un lavoro per cercare di integrarle e renderle parte della società, poi si polemizza. Questa è un'altra. Qui infatti c'è un'ipocrisia, perché anche la questione dello ius soli. Allora dobbiamo deciderci: vogliamo l'integrazione nella società degli stranieri oppure no? Perché allora ci si lamenta che non sono integrati da una parte e si rifiuta di affrontare il tema importantissimo. Io insegno qui al liceo scientifico, ho diversi ragazzi e bimbe anche, che ne so, dall'Algeria piuttosto che da altri paesi, sono qui al liceo e risultano ancora non cittadini. Cioè questo, persone anche nate qui da noi, quindi veramente è una questione che veramente non ha senso. No, ma è una questione complicata, è una questione complicata, come intricata è la situazione e con mille sfumature. Infatti, Veronica, vogliamo salutare anche tutti quelli che ci dicono che non abbiamo l'approccio del portateli a casa tua. No, non abbiamo quell'approccio del portateli a casa tua. Tu ne hai alcuni a casa tua di migranti, Veronica? No, sto facendo i lavori. Neanch'io ne ho a casa mia, però non abbiamo quell'approccio. C'è la zanzara, se volete, alle 18:30, Giuseppe Cruciani, grande Giuseppe Cruciani. Noi qua tra l'altro stiamo cercando di affrontare la tematica in una maniera civile con due persone che hanno posizioni diverse e che civilmente si confrontano. Non necessariamente deve finire a schifie ogni volta che si affronta questo dibattito. Noi ragioniamo e facciamo parlare i protagonisti delle storie, i funamboli che compongono l'Italia. Oggi, a parte noi, abbiamo un sacerdote, un sindaco che salutiamo, Ilaria Capriolio, sindaco di Savona, e il sacerdote Don Massimo Biancalani a Pistoia. E poi ognuno ascolta e dà la sua idea. Dai, dopo la pubblicità dobbiamo parlare di scuola. Ci sono tanti ascoltatori ancora. L'800240024. Ripartiremo dopo la pubblicità da Liano, da Lucca. Chiediamo un attimo di pazienza. Cara Veronica, tanti altri temi, tante altre discussioni. Stiamo qua. Sì. I funamboli. Allora, le 9:34 minuti, abbiamo indietro Liano da Lucca, che salutiamo, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Ma guardi, io più che esprimere la mia posizione, che credo che gli ascoltatori saranno più interessati alle cose generali che alla mia opinione, volevo esprimere un'opinione su chi consiglia Alfano, perché mi sembra una posizione che a dir poco è ridicola, perché lui esprime questo concetto rapido, ora potrebbe essere una legge giusta, però ne parliamo dopo, ovvero si approverà dopo, perché altrimenti si regalano voti alla Lega. Ora, ma o pensa che gli italiani siano incapaci di intendere di volere, oppure incapaci di intendere di volere chi lo consiglia a fare questa posizione, perché coloro che sono favorevoli sicuramente non gli daranno il voto, perché lo riterranno responsabile di quello che l'ha ostacolata. Certo. E quelli che sono contrari, col cavolo che gli danno il voto, dice questo, ma dopo le elezioni. Liano, poi quando ci sono le elezioni si vedrà, ecco. Ma certo, questo è il suo parere molto netto sulla questione. Però Liano dice che facendo un po' e un po' alla fine non accontenti nessuno e rischi di fare l'effetto contrario. Ho capito, ma il democristiano fa un po' e un po', da che mondo è mondo. Anche il democristiano va fatto bene, un'arte. Stando al centro stai, no? Un po' e un po', dici sì ma anche no, ecco, ti ricordi quando c'era il ma anche di Veltroni? Sì, certo. Comunque, e che non era democristiano, però per dire, Liano da Lucca la ringraziamo. No, vabbè, ma per dire l'arte del ma anche, vabbè. Allora, cara Veronica, qui vogliamo però affrontare un altro tema che riguarda il mondo della scuola. È molto diffuso, pensa che in Sicilia, l'abbiamo ospitato varie volte, c'è addirittura un docente che tiene conto di tutti coloro che usano in maniera impropria la legge 104, che è una legge sacrosanta, lo diciamo sempre, quella per assistere i parenti, sì, o i familiari disabili, e dà diritto nel mondo della scuola a chi ha la legge 104 di esercitare la professione nella propria provincia di residenza. Che succede però? Che moltissimi forse hanno una legge 104 da furbetti. Sono sempre le derive delle leggi i problemi. Vogliamo salutare un preside, il preside del liceo Brocchi, siamo a Bassano del Grappa, Gianni Zen, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a voi ascoltatori. Perché il preside Zen si è trovato di fronte, come vari presidi, a una situazione forse borderline, cioè è arrivato un professore di ruolo. E che ha fatto? Si è presentato, ha presentato il servizio il 1 settembre e poi se ne è tornato. Ma questo professore l'aveva scelto lei? No, magari, no. Nel senso che io sono convinto. C'è un aspetto della buona scuola che è molto criticato perché è una innovazione qualitativa, cioè si chiama la chiamata diretta. Sì, cioè nel i presidi senso... che scelgono direttamente i professori col curriculum. Ma più che i presidi, io ad esempio faccio attraverso un colloquio, oltre che al curriculum vitae, mi faccio affiancare del capo dipartimento di quella determinata disciplina che sì, è eletto dagli stessi docenti di quella disciplina. Quindi è un contesto, diciamo, oggettivo. Il problema è che quando noi siamo in un sistema ancora centralizzato, fondato sulle graduatorie, sulle nomine, per cui arrivano le persone indipendentemente dal contesto e io non posso verificare se questa persona, in inglese si chiamano soft skills, ha quella sensibilità, sì, quella passione, quella dedizione. Se lo trova lì, al suo lavoro, lo capisce quando lo trova di fronte, no, e quando non lo trova di fronte. Lui l'ha trovato di fronte, poi, credo. Cioè, è arrivato e ha chiesto il primo giorno cosa le ha chiesto? Un'aspettativa. È l'aspettativa. E lei ha denunciato. È un disagio personale. Okay. Allora, è evidente che io mi sono un pochettino detto, ma cosa vuol dire? E non solo. Quando noi diamo il via libera a queste cose, poi noi sappiamo che dovremo far fronte con i ragazzi e le famiglie ad un anno scolastico tutto particolare. Certo. Infatti lei professor Zen, ma è chiaro, infatti lei preside cosa ha fatto? Ha detto io l'aspettativa non gliela do. E a quel punto il motivo era semplice, io devo garantire, quando uno firma un contratto, ovviamente gli vengono riconosciuti dei diritti, ma si assume anche dei doveri. Certo. E il mio dovere è quello di garantire un servizio continuativo e stabile. Sì, però ma il professore quindi... a quel punto cosa ha fatto? Non mi dà l'aspettativa e ha prodotto un bel certificato medico. Bravissimo. E cosa c'è scritto in questo? Cioè, non vogliamo violare la privacy. Ma... Quanto tempo durerà? Quanto starà via? Cioè... No, sono dei periodi e sono già arrivati 2 certificati medici. Non è l'unico caso, Ma no, lo sappiamo bene. Il problema è che di fronte al certificato medico, a parte, diciamo, sapete cosa diceva Andreotti, visto che prima parlavate di democristiani, Andreotti diceva che a pensare male qualche volta si azzecca. Mm-hmm. È evidente che noi non possiamo entrare nel merito della certificazione di questa questione, certo. Però se uno il giorno prima mi dice mi dà l'aspettativa, uno dice no perché deve garantire un servizio e poi mi arriva il certificato medico. Track, pronto, come ma se sfornato già ce l'aveva in tasca. Track, qual è il problema allora che c'è alla base? Perché uno chiede un'aspettativa il primo giorno quando la scuola comincia? Cioè, non che cos'è che non gli... lavorare. No, vabbè, non c'ha parte... voglia di lavorare. Sì, io ma c'è... Che... No, io non lo conosco, anch'io parlo in generale, per carità, che poi sono suscettibili, parlo in generale, non c'ha voglia di lavorare. Va sto bene, parlando tu... di Lorenzo Nespoli, redazione, non questo, c'ha voglia di lavorare. Questo è possibile, però voglio capire se c'è anche un problema logistico, cioè se c'è un trasferimento per cui questa persona in qualche modo non ha piacere a spostarsi al nord. Non faccia il professore. È evidente, però se ha sottoscritto contratto... No, per capire... Se ha sottoscritto il contratto sapeva cosa dare no incontro. Perché succede ma è chiaro, certo. Succede, non sarà questo il caso, non lo so, parlo in genere, che prendono il ruolo dovunque in Italia dove vengono assegnati. Il primo giorno c'è un parente disabile che spunta, a volte spunta, magari un lontano zio che devono accudire, chiedono la legge 104, la ottengono, la producono e quindi magicamente hanno diritto a poi a insegnare. Questo non era il caso della 104 perché era una aspettativa per generici motivi di famiglia. Già, vabbè. Il discorso è, vi faccio l'esempio, ieri mi sono trovato due scuole, ho quasi 3.000 studenti, quindi immagini un po' la situazione con quasi 300 insegnanti. Sì. Io mi sono trovato con alcuni docenti che sono venuti dal sud, i quali sono venuti da me dicendomi grazie per la sua presa di posizione. Ho chiesto, qual è il motivo? Perché ovviamente qui non c'è la questione nord-sud, qui c'è la questione di persone corrette e persone non corrette. Perché il fatto, anche la questione del diritto tributario, i docenti di diritto siano quelli che ne approfittano di più, fa star male tutti perché dice ma in quale paese noi ci troviamo e se sarà mai possibile correggere le storture. Questo è giusto che si dica. Sì, nel mio ma... caso, come nel caso dell'universitario, in base sono docenti di diritto. No, ma è chiaro, professor Zera, anche perché adesso la linea telefonica va molto a tratti, si sente un po'... No, ma io mi chiedo, Alessandro, ma questi permessi della 104 sono senza fine? No, sì, cioè avranno dei limiti. Beh, se uno assiste un disabile, chiaramente lunga vita alla persona disabile. No, certo, però rispetto all'anno che tu devi fare in una scuola del nord, che cosa fai? In realtà la legge 104 in generale per tutti dà la possibilità di stare 3 giorni a casa al mese, credo 3 giorni, per chiunque privati e pubblici. Nel caso della scuola dà anche diritto a insegnare nella provincia di residenza, quindi capisci? C'è proprio per esempio credo il ministero abbia voluto e stia indagando, certo lo si dice sempre, proprio perché c'è un'incidenza di legge 104 nel mondo della scuola che come dire, o tutti i professori hanno dei parenti disabili oppure c'è una statistica strana. Evidentemente diventa un surrogato al fatto che non si è favorevoli ai trasferimenti, li si accetta per condizioni obbligate e poi si cercano delle alternative. Che vuol dire che c'è magari anche un medico, per carità parlo sempre in termini generali, saluto l'ordine dei medici, mi inchino e picchio anche il microfono con la fronte, ci sarà un medico compiacente che ha firmato, ci sarà tutta una filiera che produce queste situazioni. Comunque noi ringraziamo Gianni Zen che ci ha raccontato questa cosa, spero che sia nomen omen Zen davvero nel suo cognome trovi un po' di pace nell'affrontare questa situazione. Cara Veronica, non ti è piaciuta questa? Era un po' una battuta alla maniera. Moltissimo, un brivido di freddo mi ha percorso tutta la schiena. Sono contento perché Leonardo Manera oggi è arrivato con un'allegria portentosa. È contento? Una gioia veramente indescrivibile. Immagino, sarà proprio... Gocce di gioia, distilla e gocce di gioia. Felicità. Rutta felicità. O no, caro? Sono felice. C'è Carmine da Napoli. Carmine, tiraci su tu. Buongiorno. Sì, vediamo se ci riesco. Buongiorno. Perché vorrei ringraziare le vostre collaboratrici, cioè le centraliniste che sono a Napoli, diciamo, sono la fine del mondo. Ma sono straordinari. Le nostre centraliniste, un monumento dei nostri centraliniste e dei centralinisti. Ci sono anche è un intenditore, Carmine. Sì, la ringrazio. Io vi ascolto molto spesso, anzi quasi tutti i giorni. Sento un po', volevo parlare di Lucio Lavoriamo Sassoli. Su quel quasi, facciamo tutti i giorni, però poi andiamo tutti i giorni. Allora, di Lucio Sassoli, io sono non controissimo, per un motivo solo, che io sento tutte queste persone di sinistra che si battono perché i ragazzi diventano cittadini italiani. Vorrei dire una cosa: questi ragazzi non manca niente, Cioè, se vanno in ospedale non pagano, se vanno a scuola non pagano, se pigliano un mese non pagano. Vorrei sapere che se diventano italiani questi benefici non pensa che gli verranno rinnovati. Cioè, in effetti è solo per avere i voti che quando il ragazzo farà 2 anni, che se ne importa se è italiano o straniero, non ha nulla a che vedere tra italiano e straniero. Che cosa fa? Chiama tutti i genitori, li fa venire in Italia e loro vogliono i voti. Ma questo è lo giusto solo del PD. Non è proprio esattamente Carmine, così. Lei la pensa così, ecco. No, ma la pensa, dicevo, sul fatto che vengano i genitori qui, poi non c'è proprio questo automatismo, ecco. Anzi, alcuni genitori dovrebbero essere qui di partenza, altrimenti tutta la questione dello ius soli non ma si pone. Ma poi la cosa è molto più complicata che ragionare con l'accetta. Ci sono stranieri che non vogliono in realtà diventare italiani e non lo diventano, ci sono stranieri che non lo chiedono mai, ci sono, se si lascia così la legge, a 18 anni possono comunque i figli farlo tutti con una procedura un po' più lunga. È un po' più... come dire, sfaccettata. Ma l'abbiamo realtà, detto anche nelle volte scorse, c'è anche questa contraddizione tra lo ius sanguinis, che comunque resta un privilegio di nascita, un po', dicevamo, no? I parenti di quinto grado degli americani che a un certo punto decidono di optare per un ricongiungimento familiare, e dall'altro lato invece situazioni pratiche che già sono sul territorio e che magari richiedono di essere sanate, non in tutti i casi, ma in alcuni sì. Comunque, dopo il traffico, sono felice perché il funambolo, il gioioso Leonardo Manera, oggi è qui con noi. State con noi, grande. Prepariamo le lamette. No, grandi, stiamo con noi. Sei un dermatologo in cerca di nuovi clienti? Allora acquista e regala ad amici e conoscenti la lozione dopo barba Lambro. La lozione che produce ogni giorno eccitanti novità sulla tua pelle, risolvibili solo con l'aiuto di un bravo dermatologo. Dopo barba Lambro, il dopo barba per l'uomo che non teme il pericolo. I funamboli. I took her out, it was a Friday night, I walk alone. Get the feeling right. We started making out, and she took off my pants, but then I turned on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I saw more abuse by TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? What's my age again? Ma dai, la legge così com'è, quella sugli ussoli, è sbagliatissima. Non è possibile che se uno nasce qua sia già italiano. Il problema di questa legge dello ius soli è un grosso problema per questo governo. Se non lo approvano, perdono tutti i voti degli immigrati, che è l'unico scopo per il Partito Democratico di far approvare questa legge. Vabbè, cara Veronica, i nostri ascoltatori al 349-238-6666. Ne perdono anche molti a sinistra, così per la cronaca. Va bene, eccolo qua il nostro Leonardo Manera. Buongiorno. Il tuo problema. Ma stamattina mi sono svegliato alle 6:50 e non mi sono più riaddormentato, così in balia dei pensieri. E quindi mi devo ancora svegliare, cercherò di farlo. Cos'è che ti preoccupa, Leo? Mi preoccupa il fatto di venire qui a vedere Alessandro Milan di persona. Per esempio. Hai ragione. E poi comunque stiamo andando verso l'autunno, quindi c'è sempre questa sensazione un po' di fine di qualcosa, dell'estate. Però la cosa bella dell'autunno qual è, cara Veronica? Che ci sono ancora delle belle giornate, si può andare in giro, farsi delle passeggiate, godere un po'. Finisce la stagione di Despacito. Finisce la stagione. Dovresti essere felice. Quello dovrebbe darti un po' di pace, quello finalmente. Sì. Io ieri pomeriggio ho camminato, infatti, tutto il giorno. Sono partito da che casa immagine mia. Immagine tristissima, cioè con una bottiglia in mano. No, sono partito da casa mia vicino a Lambrate, che è la zona est di Milano. Ho camminato per ore e ore alla ricerca di un italiano e non ne ho trovato neanche uno. Ho camminato per tutto il giorno, ma in tutta Milano non ho trovato neanche un italiano. Mi sono anche spaventato, ho cominciato a gridare: italiani! Italiani! Ci sono italiani! Neanche uno. Silenzio assoluto. C'era il bar dei cinesi, il parrucchiere cinese, l'Asian Bazaar, il kebab turco, il pony Espress peruviano, la badante ucraina, molti ragazzi neri in stazione, e io che gridavo: italiani, c'è qualche italiano? Ma in fondo anche gli extracomunitari per strada non erano tanti, ma italiani neanche uno in tutta Milano. Non nel senso che non c'erano cittadini italiani, anzi, di cittadini italiani bianchi nati in Italia ce n'erano tanti, ma italiani neanche uno. Ne ho visti alcuni che non sapevo come identificare, creature strane, per esempio la ragazza con la French manicure, le unghie lunghissime pitturate che mastica la gomma coi pantaloni strappati, parla con la S un po' strana in questo modo, con le zeppe altissime ai piedi. Poi il pensionato imbottito di Viagra che non va più a guardare i cantieri, va fuori dai bar di Corso Buenos Aires a cercare qualche ragazza a pagamento perché anche se sono anziano voglio godermi la vita fino in fondo. Poi il cinquantenne coi pantaloni a vita bassa che si mette i pantaloni a vita bassa per sembrare più giovane, così le ragazze lo vedono e dicono guarda quel cinquantenne, è già incontinente. Poi la trentenne salutista che soffre di ortoressia, che è quella malattia per la quale a forza di essere salutista alla fine ci si ammala e si muore, però in piena salute. E i genitori che hanno i figli che giocano a calcio, che sono tutti convinti di avere i figli campioni, che se fosse così ci sarebbe la Serie A 6.000 squadre. Tutti italiani puri, italiani veri, italiani nati in Italia, da cittadini italiani, eppure più extracomunitari di extracomunitari, senza identità, senza storia, che non hanno lo ius soli, che in latino vuol dire diritto del suolo, hanno lo ius soli in italiano, diritto alla solitudine, perché non hanno identità comune. Siamo noi in un'Italia un po' sbandata, senza identità, dove ognuno è un po' abbandonato solo con se stesso, dove io giuro vorrei riconoscermi in Salvini o Di Maio o Renzi e mi sforzo. Io di sera prima di dormire prego e dico: Dio laico dell'Occidente, domani mattina quando mi sveglio per favore fammi credere in Salvini, Di Maio, Renzi, ma mi accontento anche di Alfano, di Rotondi, uno qualsiasi. Qualche volta vagando per la mia città ho l'impressione che gli extracomunitari non siano quelli che hanno la pelle di un colore diverso. Siamo anche noi spaventati guerrieri italiani sulla carta d'identità e basta. A ricordarmi come si parlava una volta in Italia c'è solo un senegalese fuori da un bar che mi dice ciao capo, e allora resto lì a vagare come gli altri in Corso Buenos Aires, davanti alla vetrina di qualche negozio di elettrodomestici, davanti a qualche smart TV con lo schermo a 4K. Lo compro in 24 comode rate, così quando gioca la nazionale finalmente mi sento italiano. Oh. Sono Gianfranco Rotondi. Come ti è venuto in mente? Rotondi, ministro Rotondi. Che è il depositario del marchio della Democrazia Cristiana. Sì, credo non più, hai visto? Non l'abbiamo so. Citata e abbiamo immediatamente chiamato il depositario del marchio in causa. Straordinario per oggi il nostro Leonardo Manera. Vedi, che. Beh, diceva, per fare una citazione dotta De Chirico, che non bisogna essere oggi originali a tutti i costi, ma bisogna essere originari, cioè sapere qual è la nostra storia. Da dove veniamo. Maria Antonietta, lei è un sociologo, un analista, bravo. No, è un comico, è Leonardo Manera, il nostro grande funambolo artista. Semplicemente Leonardo. Oh, grazie Veronica, con questa voce suadente. Ti è piaciuta? Così. Era una dedica. E ti su tutta la giornata con questa voce con cui hai detto il mio nome. Potremmo titolarla così, semplicemente Leonardo. Bello, questo, eh? Questo momento. Poi semplicemente poesia. E poi basta. Più... C'è Mario da Roma, buongiorno. Mario. Sì. Salve, buongiorno, sono Mario da Roma, 37enne rumeno, vivo da 17 anni a Roma e sono contrario alla Ius Soli. Perché? Perché, vi spiego anche perché, ho un figlio da 6 anni che lo porto all'asilo, ora va in prima. Io ho tanti amichetti che comunque sia sono extracomunitari, ma io vedo che non si vogliono integrare. E spiego pure perché. Andiamo alle feste, usciamo al parco, tutto quanto, sono sempre molto più dentro di loro, ritirati, non parlano, non ridono, non vogliono proprio socializzare. Ma il bello è che non è solo loro, anche i loro genitori. Cioè, la mia paura, andando avanti così, con i più soli, l'Italia diventerà la nursery dell'Europa. Perché non è tanto che uno nasce qua, vive qua, mangia l'italiano, parla l'italiano, si deve anche integrare. Se noi tutto questa inutile, è la base, questa è la base, Mario, questa è la base comunque in qualsiasi tipo di società. Il problema sempre è vero è come fai a integrarti veramente. Questo, tutti diciamo che bisogna integrarsi, poi capire come si fa. Non riesco a integrarmi io che sono italiano. Ma Nero non riesce a integrarsi quelli sono con altri stesso, problemi, Leo, capito? Però. Ho capito, però Veronica, effettivamente. No, io condivido e capisco i problemi di Leonardo, per carità, sono molto empatica, infatti, però quello è un altro tema. Però Mario da Roma, rumeno, ha dei figli, Mario, sei ancora con noi in linea? Ha dei figli e vogliono... C'è un bimbo da 6 anni. Ecco, lui cosa si sente? Cioè, non credo lui che in questo momento sente. Vuole giocare alla PlayStation, ecco, non è che gli interesserà in questo momento sentirsi rumeno italiano, però affronta questa cosa o no? Sì, diciamo come la affronta, perché lui si sente italiano in realtà, e mi fa tanto piacere quando guarda il calcio, sente il l'inno italiano, ecco, e partecipa e lo canta. Lui parla italiano, quasi italiano. Più del rumeno, cioè proprio prima lingua. Esatto, sì, capisce il rumeno e lo parla anche, trova un po' di difficoltà anche se le lingue diciamo sono molto simili, però io lo vedo che comunque sia con i suoi amichetti, se sono rumeni, albanesi o vengono dalla Nigeria, dall'Africa, da dovunque vengono, trova molto difficoltà perché sono poco integrati, quindi sono poco socievoli. No, è brutto vedere una cosa del genere, un bimbo di 5-6 anni che poi magari sono gli stessi genitori che impediscono di tirare fuori le ali, fare amicizie, uscire insieme ai altri bambini. Ma è perfettamente chiaro, Mario. No, scusi, perché dobbiamo veramente andare al giornale radio, ma il suo contributo è stato molto, molto prezioso, secondo me. C'è tra poco, rientriamo con Rania Ibrahim. È venuta a trovarci, donna nata in Egitto, ci parlerà dal suo romanzo di Islam, donne, sesso, amore, argomenti molto interessanti che affronteremo con lei, cara Veronica. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I funamboli. Io non voglio essere come nessuno, né come lei, né come loro, né come noi. Io voglio essere solo Laila e basta. Un prototipo, probabilmente. In effetti, crescere tra due culture agli antipodi aveva contribuito a rendermi insicura sotto molti aspetti, soprattutto riguardo ai miei rapporti interpersonali con tutti coloro che mi stavano accanto, per non parlare del rapporto con i miei coetanei inglesi di sesso opposto. Tutti questi divieti e limiti imposti negli anni della mia adolescenza avevano creato in me una sorta di disagio perenne. Mi sentivo spesso una disadattata. Non potevo essere quella che avrei voluto, o meglio, altri non mi permettevano di essere quella che io avrei voluto essere. Insomma, né carne né pesce. Forse ero una specie di tofu, un fungo, un'alga. Non ho mai pensato di poter piacere a qualcuno. L'unico approccio romantico con un maschio che la mia memoria si sforza tanto di suggerirmi è stata quella volta in terza elementare, quando il mio compagno Paul, lentiginoso e rosso come un peperone, mi disse che trovava di suo gradimento le mie calze. Lo guardai schifata e gli sferrai un calcio sul suo stinco sinistro, dicendogli che mi faceva schifo e che puzzava di maiale. Ovviamente non indossavo le calze. Era il colore della mia pelle più scura della sua. Allora, cara Veronica, tu hai letto un brano dal libro Islam in Love, che è stato scritto, il primo romanzo scritto da Rania Ibrahim, che è venuta a trovarci qui negli studi di Radio 24, che salutiamo. Rania, buongiorno. Grazie. Buongiorno a tutti. Oh, ciao, finalmente, Rania. Finalmente ciao. Un po' di varietà in questo studio. Perché? Si è ripopolato lo studio, Leo. Si è ripopolato. Rania Ibrahim ha scritto questo romanzo. Allora, intanto abbiamo parlato per un'ora o per un po' di Ius Soli, di cittadinanza. Adesso sentite Rania Ibrahim, di qualcosa, parlaci di te. Sì, buongiorno a tutti, sono Rania Ibrahim, ho 40 anni, vivo in Italia da quando ho 2 anni, sono una di quelle che aspettavo anch'io lo Ius Soli e devo dire che oramai mi sono abituata alle delusioni che la politica offre quotidianamente oramai un po' a tutti noi cittadini. Ma tu hai insomma la cittadinanza italiana, cioè, adesso, sì, purtroppo certo. Purtroppo ho avuto la cittadinanza italiana non per merito, cioè nel senso non perché vivessi qua e avessi fatto l'iter burocratico per diventarlo, ma sui documenti miei personali c'è scritto segue marito cittadino italiano. Certo. Proprio per una come me che normalmente mi sono guadagnata tutto sulla mia pelle, è stata una grandissima sconfitta, però oggi sono cittadina italiana e faccio le battaglie perché ancora sta dietro e deve raggiungere questo obiettivo. Almeno noi uomini italiani siamo serviti a qualcosa in questo senso. il nostro Leonardo. Se non potete essere utili ad altro, potete sposarle le persone, almeno questo. No, Rania Ibrahim, tra l'altro, è la nostra funambola del giorno. Abbiamo preparato, e così ho spoilerato anche la nostra sigla, ma adesso, siccome vogliamo fare le cose tutte formali, ufficiali, sì, la radio di Confindustria. Diamoci un tono. La funambola del giorno. Nome: Rania. Cognome: Ibrahim. Età: 41 anni. Nata al Cairo, si è trasferita in Italia con la sua famiglia quando aveva 2 anni. Laureata in scienze politiche, ha appena pubblicato il suo primo romanzo che si chiama Islam in Love. Abbiamo dato anche un anno in più, così siamo più contenti. No, pure, cioè non solo l'età delle signore, ma anche un anno in più. A novembre, 15 novembre farò 41 anni. Per adesso sono quarantenne e rimango, voglio rimanere. Allora si può dire 41, dai. Una splendida quarantenne. Assolutamente. Allora, Rania Ibrahima ha scritto questo romanzo, la cui protagonista è Laila. Abbiamo letto, Veronica Gentili ci ha letto un brano di questo romanzo, in cui si parla di tante tematiche che sono molto attuali. Io, per esempio, sono rimasto colpito nel primo capitolo. Laila racconta quel periodo della vita che arriva per tutte le donne delle mestruazioni, la prima volta del ciclo, e questo subito butta il lettore, parliamo anche brutalmente nel dramma di questa ragazzina che in un mondo non abituato, non uso, pronto a considerare tutto questo haram, peccato. Allora Laila si comporta subito così, cioè sono una peccatrice. Ma perché questo? Perché alcune parti del corpo vengono marcate, no? Nel senso di si dà un'importanza che non compete. Cioè noi non siamo sempre, non possiamo utilizzare sempre il nostro corpo come vogliamo. Ci sono appunto delle religioni che hanno un approccio di tutela eccessiva a volte nel corpo delle donne soprattutto. E in questo caso appunto Leila a 12 anni, il primo impatto che ha con questo momento, che è importante per tutte le ragazze in tutto il mondo, insomma è una questione trasversale, ha questo primo approccio, ma perché vede il momento del passaggio dalla maturità, quindi quando il corpo matura, come qualcosa che le impedirà poi di vivere la sua vita come l'aveva fatta prima, come la viveva prima. Perché dal momento che si diventa mature, che si ha il ciclo mestruale, la società stessa cambia, società ovviamente musulmana. Sì. Si pretende appunto che la ragazza tuteli le parti intime, tuteli il suo corpo, lo rispetti. E infatti c'è il decalogo della mamma. Il decalogo della mamma. Da questo momento non devi fare questo, non sì. devi incontrarti con nessuno. Allora, non voglio devi essere toccare, sincera, perché comunque lo devo anche a coloro che avranno voglia di leggere il libro, ma soprattutto quelli che l'hanno letto e mi stanno anche mandando dei feedback molto positivi e sono contenta. Molte parti del libro sono esperienze mie personali, lo dico, per esempio questa delle mestruazioni è proprio come ho vissuto io le mie mestruazioni, perché era anche importante lasciare qualche parte, cioè, raccontare secondo me un passaggio così, inventarmelo proprio di sana pianta era veramente difficile, invece ho voluto raccontare qualcosa che ho vissuto io. Non avevo problemi con il mio corpo, però avevo paura del mio corpo, dei cambiamenti soprattutto che avvenivano. E appunto io ho nascosto a mia mamma questa cosa per 3 giorni. Poi il quarto giorno, devo dire la verità, proprio sono... E c'è anche il decalogo della mamma, è vero? La mamma sì, è la mia mamma. Ma che, Rania, ma che bene. Rapporto hai tu con tua mamma? Infatti ero curiosa di capire questo, anche perché tu hai invece dei figli e anche delle figlie femmine. Sì, ho 3 maschi e 1 femmina. Allora, ecco. Mia mamma è una persona veramente meravigliosa. Siamo molto più amiche oggi che nel passato, ovviamente. Però oggi abbiamo anche un'età, siamo maturate tutte e due, siamo cresciute probabilmente tutte e due. Quindi anche se qualcuno di noi ha commesso degli errori, tra virgolette ovviamente, io penso che siano degli errori leciti in base anche all'età e alle esperienze della nostra vita. Ma la ragazza quando sta per diventare adolescente, quindi in prossimità delle mestruazioni, è preparata a questo modo diverso di viverlo da parte dei genitori oppure assolutamente no? Assolutamente no, non se ne parla di queste cose. Sono veramente... io nel libro parlo delle 3 H, che sono veramente... anche questa è una cosa che mia madre mi ha sempre detto, che sono... 3 lettere che portano avanti 3 cose molto importanti. Una è haram, appunto, haram peccato. È peccato, quindi tutto quello che è peccato che non va fatto. Halal, lecito, che quindi la religione ti consente appunto di fare. E hoshuma, che è molto sottile questa la vergogna, è il pudore, o meglio il controllo a priori delle azioni. Cioè tu ti devi controllare affinché non fai qualcosa di sbagliato. No, fermati qui Rania. Parlare del corpo è hoshuma. Certo, e quindi bisogna avere questo pudore. C'è il traffico. Poi vogliamo proprio entrare in quello che è il tema, il grande tema, senza generalizzare, ma attraverso i tuoi occhi, della donna, la religione islamica. Il sesso e anche l'amore in questo. E come tutto questo vengono percepiti nella società in cui sei cresciuta. Tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta I Funamboli. Islam in Love è il primo romanzo di Rania Ibrahim, Juvans editore, è venuta qui a trovarci negli studi di Radio 24. Io sono Rania, diretto. Io volevo chiedere una cosa, Ma rispetto alla... ho letto un po' i racconti che tu fai, cioè quando i tuoi genitori sono venuti in Italia, In realtà tu sostieni che ci fosse più modernità e più voglia di integrarsi rispetto a quella che vedi adesso, cioè tu parli dei problemi della nuova immigrazione che tu senti molto più refrattari all'integrazione. Oddio, sfondi un portone, perché la mia battaglia è questa, insomma. Io mi occupo e faccio volontariato in una parrocchia e insegno italiano alle nuove donne che arrivano in Italia, normalmente con un ricongiungimento familiare. Sì. E mi sono accorta di una netta differenza tra queste donne e mia madre, per esempio, che arrivò qua nel 74 circa. Devo dire che c'era molta più apertura nelle donne degli anni 60-70 che le donne di oggi. Io le trovo veramente chiuse, ma c'è anche un'analisi che bisogna fare precedentemente. Infatti, tu spieghi perché secondo te questo? Assolutamente, intanto partono, sicuramente è un'immigrazione meno colta che arriva oggi, soprattutto negli ultimi 15 anni. C'è un'immagine, comunque, se la vogliamo analizzare, di un'immigrazione meno preparata, più ideologizzata e più religiosamente politicizzata. Questo purtroppo è avvenuto nei paesi d'origine. Io posso parlare molto bene del mio paese perché lo conosco bene, e anche i dati, insomma, degli egiziani in Italia mi permette anche di parlare di una rappresentanza abbastanza e giustamente tu segnali che gli egiziani non hanno niente a che fare con tanti altri popoli invece che sono percepiti comunque come popoli islamici, di religione, e che quindi si pensa che appartengano a un'unica grande collettività. Non quando siamo invece... un blocco monolitico, siamo tanti piccoli grappoli. Chiaro. Di questo grande albero, ma stiamo parlando della Umma islamica, un miliardo di persone, 1.700.000 circa. Sono stato bene, si parte dal Marocco fino all'Iran, insomma tutta l'Indonesia, sono popolazioni completamente diverse. Tra l'altro nella percezione almeno secondo me degli italiani, il popolo egiziano è quello, diciamo, meno percepito dal sì. punto di vista integralista, dove c'è. Oddio. Beh, insomma, quei fratelli io musulmani dico nella percezione, adesso, sì. no? Nella percezione. No, è successo che nel trentennio, per esempio, di Mubarak, ma vabbè, sono anche gli anni prima, c'è stato un completo abbandono del welfare da parte dello Stato, sicché tutte queste popolazioni che vivevano veramente in una povertà esagerata e una repressione totale proprio della loro vita, hanno trovato come unica salvezza queste organizzazioni che sono i fratelli musulmani in Egitto, piuttosto che Nada in Tunisia. Quindi era il loro welfare, perché ai loro figli li si permetteva di andare a scuola, tutta la parte attente. Per esempio dei consultori romani, quindi c'è qualcosa che è stato fatto. Io, Rania, sono brutale nelle mie domande, è la mia caratteristica. È vero, l'umma islamica è molto molto vasta, quindi non si può generalizzare. È variegata. Ma la donna nell'Islam è considerata un essere inferiore? Allora, nell'Islam probabilmente non è considerata un essere inferiore, semplicemente sono gli uomini che si sono... hanno preso il potere di una religione senza che nessuno gliela abbia mai data, ma un po' tutte le religioni, se guardiamo, sono di competenza maschile. Beh, tutto io il nel potere libro nella lo dico, storia fino a qualche anno fa è sempre Leila, stato ma Leila infatti nel libro dice: mi piacerebbe trovare una religione femminile con profeti e proprio anche lì mi sono un po' buttata, ho paura a dirlo, ma proprio un dio femminile. Cioè, perché quando io prego a un dio maschile? No, io non lo so se è maschile o femminile. Comunque nel Corano, ma anche nei testi sacri occidentali, per carità, la Bibbia piuttosto che nelle altre, è sempre maschile. C'è anche un pezzo del libro in cui parli di Adamo ed Eva, molto divertente, no? In cui dici, parli di tutto quello che è toccato a Eva e pensi di essere blasfema quasi. Spero di no, perché ho quattro figli da mantenere. No, ci manca solo è interessante, per esempio, solo quello. Una cosa che prima raccontavi anche in redazione è che tuo marito, che tra l'altro è italiano convertito, non ha letto il libro. No. Non ha voluto leggere, perché? Che cosa c'è di così pauroso? No, probabilmente lui ha un carattere, lui è proprio tenebroso, tutto sempre così, cioè ci compensiamo. Ma cosa scrivi di così sconveniente? No, sconveniente nulla, perché maschile. Parlo anche di sesso e secondo me tutto è la cosa più bella del mondo, il sesso, diciamocelo, insomma, una di quelle proprie ma cose. Ma forse violi un tabù? Ancora, se possiamo farlo. Il marito, dici, forse semplicemente non gli piace leggere, preferisce guardare partite di calcio. Probabilmente. No, mio marito legge, però non legge mai le cose che scrivo io, non so, a parte che è molto critico nei miei confronti. Però è lì, è sul comodino da un bel po', perché ce l'ha in PDF. Ma forse perché questo è anche un po' un tabù. Lì forse c'è il pudore, secondo me è perché ha paura di ritrovarsi nel mio libro è un chiaro, pochetto. Anche nei racconti, la sessualità, le cose, magari dice, dai... Ma io penso di aver fatto anche di peggio di quello che ho scritto nel libro. Però tu con questo libro che cosa vorresti raccontare alle donne, per esempio, musulmane che vivono in Italia? Allora, io spero intanto che lo leggano, ma in italiano sarà un po' difficile. Se voglio posso fare anche un audiolibro in arabo pur di farlo arrivare. Devo dire che lo stanno leggendo molte ragazze di seconda generazione, quindi cittadine italiane cresciute qua, e sono contentissima perché mi dicono finalmente è un libro che parla con coraggio e senza ipocrisia. Perché noi ne parliamo sempre. I tabù che hai violato. Perché però ne hai parlano. Noi musulmane parliamo tantissimo di sesso. Però cioè ne parlano tra amiche, ne parlano... Sì. Sempre sottovoce, in cameretta con la porta chiusa, attente a non farsi, appunto, come dico nel libro, sentire dalle mamme, insomma, perché verrebbero tacciate per essere delle ragazzette un po' allegre. No, poi fa sorridere che nel libro la tua cugina che vive in Egitto è molto più scabrosa nei particolari, molto più esplicita nel parlare di sessualità di quanto invece lo sia Laila, che invece è cresciuta in Europa. Questa è la realtà dei fatti. Io devo dire la verità e sono molto delusa da questa cosa, perché trovo un'apertura mentale e una voglia di integrazione, ma che parte dai paesi d'origine, più di quando si arriva qua e si nasce qua. Io trovo una comunità musulmana presente soprattutto in Italia, perché è quella che posso toccare quotidianamente, di una chiusura pazzesca. Poi ci sono tante ragazze adesso che stanno iniziando a muoversi un po', hanno questa voglia di mettersi in gioco e di ricercare e ritagliarsi spazi che il diritto stesso di questo paese li però concede. In queste chiusure, Rania, quanto incide la cultura e quanto incide la religione? È tutta cultura e tradizione, secondo me. La cultura e la tradizione, secondo me, affossa a volte la religione. E poi soprattutto il senso di vergogna e di uscire dai binari. Non tanto dalla religione stessa, ma più che altro perché sgarri con una comunità che dovrebbe essere unita. Infatti è questo quello che dunque ti emargina. Ti emargina completamente, o comunque ti taccia di non essere. Io tante volte sono passata per quella che sono una musulmana, che io lo trovo anche offensivo, tiepida, per esempio. Io non sono assolutamente una musulmana tiepida, io sono molto praticante. E la questione che io non porto il velo non mi dà nulla il velo. Io personalmente il velo non vedo cosa. Non mi dà nulla. Cioè, io sono una musulmana anche senza velo. Tra l'altro, noi siamo in diretta anche su Facebook. Per chi volesse vederla, veste totalmente all'occidentale, ha anche un piercing al labbro e un piercing al naso. Dice che ce l'ha anche all'ombelico. Ma l'altro non te lo dico dov'è, perché sennò ti scandalizzi e siamo anche in orario. Per carità, lui è un po' bigotto. Lascia stare, guarda. Io sono l'uomo più liberale al mondo. Si turba poi con queste cose. Figurati. Siccome mi sembra che le donne in questo tentativo di integrazione siano un po' più avanti, è impensabile pensare a un movimento di donne musulmane che si danno da fare per no, integrare. Ci sono e lavoriamo da tanti anni, solo che purtroppo non ci danno lo spazio, perché non rappresentiamo quell'immaginario che proprio nell'Occidente ci vogliono così. Io faccio una fatica pazzesca, per esempio, a parlare di Islam senza velo, perché i media non mi vedono come una interlocutrice dell'Islam. Cioè, come, certo, l'Islam dovrebbe essere velata. In TV non puoi invitarla, no? Perché la TV, certo, che è finta, vive di immagini. Se tu sì, ti presenti senza velo, ma che razza di musulmana sei? No? Non dirò qual è la trasmissione, ma tante volte vengo invitata in una trasmissione dove non metterò mai piede, qualcuno avrà capito, dove spesso vengo invitata, poi alla fine mi dicono: ah, tu sei quella che non ha il velo. Ah, ok, porta qualche amica. Dico: guarda, non veniamo proprio, non ti preoccupare. Come tappezzeria. Hanno bisogno del simbolo, perché devi incarnare quella che è l'immagine, il cliché della musulmana. Lei l'ha voluto mettere il velo. Però io vorrei capire che cosa ne pensi del velo. Io quando vedo le donne girare velate, alcune completamente anche velate per Milano, un pochino mi stupisco, faccio veramente fatica, viene un po' di tristezza, faccio fatica a leggere una scelta di libertà in quella. Faccio fatica, sarò limitato io, ma non riesco a vedere uno sprazzo di libertà e di libera scelta in quella decisione. Poi magari sarà così e non lo so. Finché è una scelta, sinceramente non entro nel merito, nel senso, se loro sono contente così di vivere anche faccio fatica. Io penso a che la religione ti debba far star bene proprio a livello personale. Se loro sono contente di indossare un velo, si sentono più musulmane o più, anche perché veramente nel Corano non c'è scritto mettiti scafandrati in quel modo, insomma, da mostrare gli occhi, non c'è, prendete un Corano e cercatemelo, sono qua oggi, vi dico che non c'è. Si parla di modestia nell'abbigliamento, ma anche in chiesa quando si entra, certo, non si entra, certo, in hot pants e magliettina scollata, insomma, c'è un rispetto per la fede per stessa, la sacralità del luogo. È anche vero che quando prego io mi copro, però in quel momento mi copro, perché comunque è un rapporto mio e Dio tra, in quel tra momento. Tra l'altro arrivano tanti messaggi, il titolo del libro lo ridiciamo, poi l'avremmo ridetto in chiusura, è Islam in Love di Rania Ibrahim. Ci scrivono anche: mi piace un sacco che una musulmana padroneggi la lingua italiana infinitamente meglio del 50% degli italiani e del 100% dei razzisti. Questo non lo so. Prima ci parlava delle sciure, sai cosa sono le sciure a Milano, Veronica? In realtà io, che sono più straniera di Rania, dovrei non saperlo. Le signore, ma, le signore, ma nel sciure, tempo in cui sono stata lì milanese, un po', sì. A me la cosa che mette grande tristezza quando vedo le donne completamente velate, magari col burka integrale, è vedere loro e magari la bambina piccola che ancora ha il viso scoperto, e mi immagino quando tra pochi anni, dopo pochi anni, dovrà completamente coprirsi anche lei. Questa cosa mi mette veramente a ma disagio. Ma hai ragione, ti dico anche perché le nostre madri, quando sono venute qua, non portavano il velo. Gli anni 70 non c'era il velo, e potete anche andare a documentare, e c'era questa voglia proprio di, che non vuol dire scoprirsi se più liberi, perché non è vero, noi viviamo una società dove posso andare in giro come voglio, anzi, e rischio lo stesso, e mi rischio anche di dire te la sei cercata, piuttosto che. Quindi quando parliamo di libertà della donna e del suo corpo, e della libertà di farci quello che le pare, un attimino stare attenta a mettere l'Islam come sì, unico. Sì, ma poi a volte l'estremo contrario di doversi scoprire a tutti i costi, bravissima, neanche lì sei più libero, lo fai per essere interno. Cara Veronica, cioè oggi sui giornali c'è una notizia che dovrebbe farci illuminare di gioia, evviva, cioè esultiamo, perché dal giugno 2018, cioè tra un anno e mezzo, in Arabia Saudita le donne potranno avere la patente. Cioè stiamo parlando di anche un mondo che ha delle chiusure, poi l'Arabia Saudita è wahhabita abbastanza proprio integralista in tutti i sensi, insomma il venerdì si tagliano ancora le mani a chi ruba e la lingua a chi bestemmia, insomma starei attenta a parlare. È veramente una grandissima, un piccolo passo, no, per noi donne, in punta di piedi soprattutto, perché poi bisogna anche vedere la società che condanna, non c'è, ok, io ti do il diritto, ma poi bisogna vedere gli altri, il marito, come tante quindi situazioni. Incredibile, Leonardo, aumenteranno esponenzialmente gli incidenti anche in Arabia Saudita. Questo è inutile, stavo per dire questo, voi dite una buona notizia, adesso parliamo, né? Perché insomma basta vedere me in macchina anche lì, e tantissime barzellette su quello, però non si potrà mettere un freno, Rania, sarà peggio del resto. Sì, io semplicemente volevo solo dire questa cosa dell'Arabia Saudita, è della seconda volta che presento il libro e ho una bella notizia da questo punto di vista. La prima volta era il 15 settembre, che l'ho voluto fare alla libreria Antigone di Milano, che ha una storia importante, insomma, del tutto il mondo LGBT. C'erano con me a presentarlo un ragazzo musulmano gay dichiarato, quindi è stato, ho voluto anche proprio quello è un altro problema grosso, io ho voluto rompere gli schemi con questo libro, e mi auguro che le persone possano perlomeno permettermi di presentargli anche un altro tipo di Islam, che sarà molto difficile secondo me farlo passare nei media, ma che esiste ed è probabilmente anche la stragrande maggioranza silenziosa, però siamo meno rappresentati, insomma. Rania, c'è un messaggio per esempio che chiede se tu sei favorevole o meno al matrimonio gay. Assolutamente sì. Se le persone sono felici, io non sono nessuno per evitarlo, insomma. E i matrimoni misti, tuo marito ti ascolta? Noi siamo misti, mio marito è a Parigi adesso. Misti come tra un gay e un eterosessuale? No, i matrimoni misti interreligiosi. Ma tuo marito si è convertito, dicevi, mio marito è convertito nel massimo, nella culla dell'Islam sunnita, perché Al-Azhar proprio ha fatto questo corso accelerato, però è l'unico che nella mia famiglia ha un certificato di musulmano. Noi non siamo, cioè noi siamo per nascita musulmani, ma lui ha un certificato proprio, è quello perché più ha dovuto andare all'università più famosa, più celebre, al Cairo, e che ha seguito... rappresenta proprio l'Islam sunnita, cioè è proprio la base dell'Islam. Ma lui sunnita, ha avuto il desiderio di convertirsi perché si è affascinato alla religione, o no, è stato in... no. No, devo essere sincera, penso che se non mi avesse mai incontrato ne fregava nulla di diventare musulmano. Oggi devo dire che è un ottimo musulmano, molto più musulmano di tanti nati, cresciuti in una famiglia musulmana, perché comunque essere musulmani non è semplicemente avere la barba, piuttosto che è tante cose. Mm-hmm. Cioè, mi piacerebbe intanto essere una brava persona, aiutare, e lui lo fa, l'ha sempre fatto, adesso lo fa ancora di più. E questo è importante, la conversione sicuramente. Io voglio essere sincera, perché sennò raccontare qua fesserie non mi sembra giusto nei confronti degli spettatori. È stata un po' un'imposizione mia, nel senso non proprio mio personale, perché io l'avrei anche accettato così com'era. Quale solo marito che non subisce io non ero cittadina italiana Non ero ancora cittadina italiana e quindi facevo capo alla giurisdizione del mio paese, che non mi permette di sposare cittadini, partner non musulmani. E quindi ha dovuto proprio convertirsi. E quindi abbiamo dovuto utilizzare questo stratagemma. C'è un ultimo grande capitolo, insomma, siamo in chiusura, ma il terrorismo, le persone che colpiscono e che lo fanno anche in Europa, abbiamo visto, in nome di Allah. Sì. Tu come reagisci di fronte a questo tipo di attentati, ovviamente con sdegno, ma credi che la religione abbia davvero, sia un motore per queste persone oppure sia solo un pretesto? No, assolutamente no, perché se analizzi anche i personaggi che compiono questi atti e che si lasciano anche attirare da questa rete, sono persone molto deboli. Intanto spesso hanno precedenti penali, utilizzano droghe, tutto quello che la religione normalmente ti dice di stare un po' di non fare. Però a parte quello, io penso che sono persone sicuramente deboli proprio anche psicologicamente. È vero che non voglio dire che sono tutti matti, perché sennò ci raccontiamo le fesserie. Cioè, la religione può essere strumentalizzata, perché è un metodo molto semplice per arrivare, insomma, chi è che non vuole essere il perfetto musulmano? E quindi diventano martiri con questa storia delle 72 vergini, sì, che io ho voluto. Ecco, il libro io non l'avevo chiamato Islam in Love, diciamo che l'editore qua è stato il massimo. Sì, ho letto questo. Tra l'altro, se non sbaglio, il Corano dice che queste 72 vergini dopo ogni rapporto tornano vergini, sì, giusto? Sì, nel libro la racconto, sì, sì, a modo mio questa storia, sarebbe bello magari. No, ma parlarvi. Noi dobbiamo chiudere, dobbiamo andare alla borsa, però c'è anche Mohammed che scrive: ciao a tutti, sono egiziano, vivo in Toscana dal 92, condivido in pieno il pensiero di Rania. Grazie Mohammed. Ribadiamo il libro, Rania Ibrahim, Islam in Love, è il suo primo romanzo, Juvans editore, lo trovate ovviamente in libreria. E che dire, Veronica, dobbiamo andare alla borsa, vuoi salutarla lì da Roma? Beh, no, certo che la saluto da Roma e mi complimento. Perché te l'ho detto molto. Io non l'avresti salutata. Ma cosa? Tu okay. Oggi è sarcastico qui Milan. Ma Leo, non lo stai tenendo buono abbastanza? Ma quelle goccette che ti avevo detto di dargli, non gliele dai più? Io invece voglio dire a Rania che ha un bellissimo sorriso e che, grazie, è un peccato che alcune donne debbano coprirlo. Sconderlo, sì, coprirlo. Assolutamente. Grazie. Beh, davvero a Rania Ibrahim. Andiamo a sentire la borsa e poi rientriamo. Abbiamo la campagna defurbizziamoci oggi. Magari anche in Egitto fanno i furbi, chi lo sa. Sicuro, boh, sicuro. Forse sì. I funamboli. Tattiche intorno allo Ius Soli per questioni elettorali sono veramente vergognose. Il problema dell'Italia non è lo Ius Soli, è l'Italia. Milan, a me mi devi spiegare quale deficiente può ambire ad avere la cittadinanza italiana, a collarsi un debito pubblico che non lo so quant'è arrivato a sto punto. Francamente dimmi te, che io non lo capisco. Ciao. Non è male questa torto, lettura. Non ha torto. Questa è un'osservazione intelligente. Molto intelligente. Perché uno si deve accollare, sai che ogni bambino cosa ha 10.000 euro circa di debito pubblico appena nasce, non se lo non so, sbaglio. 10.000, sì, sì, te lo assicuro, circa 10.000. Non so la per cifra. Per quello tenta subito la retromarcia, no? Mentre sta uscendo dall'ute, sì, e dice sì. No. Va bene, alle 10.40 minuti noi siamo i funamboli e allora è il momento in cui con una proditoria e prodigiosa sigla annunciamo eccoci, è il momento in cui chi l'ha fatta questa sigla? Secondo me Guido Scotti ha fatto questa sigla. No, è che è entrato qui in studio, allora volevo un attimo, credo di averla fatta io in un momento in cui come stamattina quando viene fuori l'altra personalità. Dai, è il momento in cui invitiamo le persone a raccontare quando siete stati furbi, furbettini, furbettelli, furboni, furbastri. È il momento della sigla. Defurbizziamoci. Io direi mandiamo 5 minuti solo di sigla. Non so se è peggio la sigla o tu con furbetti, furbastri, furbelli e furboni. C'è Maurizio, buongiorno caro Maurizio, 61 buongiorno. Anni, provincia buongiorno. Di Vicenza. Che hai combinato, Maurizio? È una cosa prolungata nel tempo, quasi più di 20 anni. Complimenti. Più di 20 anni. Eh sì, forse anche di più, girando l'Italia in su, in largo, mi dovevo fermare molto spesso a mangiare in autogrill, non sopportavo che una mozzarella di bufala costasse tanto, prendevo la mozzarella, la mettevo nella sua terrina, la ricoprivo di insalata e andavo alla cassa a pagare. Ah, e pagavi e un'insalata? Insalata. Il segreto qual era? Non dichiarare cosa c'era dentro. Ho capito il segreto, certo. Rubavi una mozzarella di bufala. No, è la differenza tra mentire e omettere. Beh, adesso. Non neanche, perché io mettevo il vassoio con la sua terrina sopra, la cassiera vedeva quello che c'era nel vassoio e mi addebitava l'insalata. Ma l'insalata... A domanda, raramente a domanda, c'era mozzarella? Certo che c'era mozzarella. Quando lo chiedevano si svelava. Maurizio diceva perché la domanda menzogna era troppo, perché la domanda era di quelle che qua mi hanno beccato e quindi no. Non è che mi hanno... qui c'è la mozzarella, sì, certo. Ah, ecco. E sembra la cosa c'è... più la cosa più che fa ridere non è questa, tanto è che da 4 anni ho una piccola azienda di ristorazione commerciale. Fai mozzarella. E quando faccio formazione alle mie cassiere, la prima cosa che insegno loro a controllare che non ci sia la mozzarella. Mettono il dito nell'insalata. No, il dito no, la chiedono. Chiedono e uno mente e allora lì... sono guai. Però scusami, dovresti essere più tollerante dopo averlo fatto per tanto tempo se qualcuno butta lì una mozzarella. No. Ma io sai cosa ho fatto per essere più tollerante? Ho messo le mozzarelline. Quelle piccole, ecco, perché lui i furbetti lui li riconosce, essendo stato riconosce i furbetti. Lui. Senti, vuoi fare fesso proprio me? L'ho inventata io la mozzarella sotto l'insalata. C'era qualche autogrill preferito in cui riuscivi meglio a fare questo trucco? Perché io ne conosco molti. C'era qualche tuo autogrill? Una volta erano tutti autogrill, adesso non sono più tutti autogrill, perciò non si può fare più. Poi una volta la mozzarella era in una vasca insieme a tante altre mozzarelle, adesso sono sigillate, perciò è cambiata la storia. Hai passato la vita a nascondere mozzarelle, una vita un po' amara. Quindi per questo stai facendo outing in realtà, perché non c'è più possibilità di farlo. Chiaro. L'ho fatto, bene sì, l'ho fatto. Comunque Maurizio, noi ti diamo la patente di... defurbizzato. Basta, sei defurbizzato. Risolto. Sei risolto, basta. Però adesso mi raccomando, dichiara tutto. E comunque, cari ascoltatori, se ci chiamate all'800240024 o scrivete a funamboli@radio24.it, raccontateci quando avete fatto i furbi anche voi. Tu Veronica, sì, tu molto furba. Vabbè, ma guarda, che cosa dici? C'è un nostro grandissimo ascoltatore, ci segue sempre, Dieng da Treviso, anzi da paese, secondo me sei tu Dieng, Dieng da paese. Buongiorno Ale, buongiorno. Complimenti di nuovo per la nuova trasmissione, però ti hai tradito e noi ti volevamo ancora alle 5:30. Sì, infatti abbiamo deciso che torno, però vi dovete svegliare tutti alle 5 e venire tutti alle 5 e mezza qui. Dieng, perché col lavoro che faccio devo svegliarmi per forza presto. Cosa ci vuoi dire, Dieng? Allora, non volevo dire perché sullo Io Soli. Sì. Perché il documento non deve essere un fattore di integrazione. Semmai deve essere il contrario, perché io vedo una sinistra che sta proprio aggrappando su una cosa che il ponte, se lo saltiamo, rischiamo di fare due cittadini, uno di prima categoria, uno di seconda categoria, e abbiamo già visto nelle banlieue parigine cosa è successo. Allora, se la sinistra vuole proprio aiutare gli immigrati, deve proprio abrogare una legge che si chiama la Fini-Bossi. È la peggior legge che è stata fatta in questo paese. È ancora in vigore. Se non sono riusciti a cambiarla. Perché questa qua proprio sta proprio rimandando proprio gli immigrati in clandestini. E come diceva Oscar Wilde, chi dice la verità prima o poi viene scoperto. Ma questa è una mezza verità, perché non ti hanno detto tutta la verità. E poi l'ultima cosa, sì? L'ultima cosa, che l'immigrato non ha tanta volontà proprio di integrarsi. È la volontà che manca, la volontà di integrazione. Ma quello la paura del confronto. Quello è la, come dire, la scelta personale, anche effettivamente. C'è chi si vuole più integrare e chi no. Veronica. No, ma mi chiedevo perché, se davvero una delle motivazioni è quella di cui ci parlava Rania prima, cioè il fatto che comunque il bisogno di blindarsi in comunità, anche tornare al velo, cioè non è che tutti vogliono necessariamente integrarsi nella comunità in cui vivono. Magari io vado a vivere in Australia, ma voglio fare un po' l'isolato italiano e non mi voglio integrare, cioè non è... Io voglio solo nascondere mozzarelle d'ora in avanti, esempio, per esempio, allora, per esempio. Che contribuirà al tuo non integrarti di cui parlavamo prima. Dovevo andare al traffico perché è il momento poi ancora del ritorno di nuovi personaggi. State con noi. L'ultima c'è parte qualcosa che non va nella tua vita? Ti senti solo? Triste? Depresso? Hai i capelli deboli? Sottili? Sfibrati? Non riesci ad ottenere la tartaruga sulla pancia? Allora è giunto il momento di annegare tutti i dispiaceri nell'alcol dell'amaro Caporetto. Amaro Caporetto, l'amaro di chi, dopo aver perso tutte le battaglie, ha già da tempo perso anche la guerra. Amaro Caporetto, gustalo mentre ti arrendi. I funamboli. Siamo all'ultima parte dei funamboli, cara Veronica. Sai che è venuto a trovarci un personaggio che tu ami ormai alla follia, vorresti anche fidanzarti con lui, eh? E chi è? E sono Battista, no? Non mi riconosci, ma... signora Gentile, tanto gentile, tanto onesta, pare, capisci? Battista, buongiorno, non ti avevo sentito entrare. Anche sono contento, no? Ogni tanto di venire qui a da Radio del 20. Anche io sono contenta. Si sente, si sente. Guarda che abbiamo fatto anche la sigla per gli arrivi e le incursioni di Battista da Cavaillon Veronese, eh? Addirittura lì. L'angolo del populista. Senti, questa è quasi meglio di deformizziamoci, eh? Sì. Ma io non è populista, no. Perché è il problema dell'Italia non è populisti, è buonisti che vuole che tutti i barconi in mare portano extracomunitari in Italia. Tra un po' Mina tra un po' te trovi. Mina, tra un po' te trovi anche Capitan Findus che invece di Merluzzi porta extracomunitari in Italia, capisci? E poi anche Capitan Findus non è italiano, porta via lavoro a capitani italiani. Capitan Findus, sai quanti capitani italiani a Mazzara del Vallo e disoccupati perché c'è Capitan Findus, capisci? Mina? Capisco. Poi per fortuna adesso almeno c'è una cosa che mi piace, sai? C'è il ministro Minniti che ha capito come comportarsi, Minniti, che bisogna avere il pugno di ferro. Ma poi qual è il problema? Che il presidente del consiglio non è Minniti, è Gentiloni. E già dal nome si capisce che Gentiloni non è uno col pugno di ferro, no? Come si dice, nome nome, quello lì, no? Nome nome. Sì. Quello ha un cognome che sembra marca di camomilla, camomilla Gentiloni. È troppo tranquillo, Gentiloni. Bisogna mettere i nostri cognomi, eh? Bisogna mettere un po' di pepe, no, dentro la camomilla, Gentiloni, no? Che altrimenti, perché in Italia c'è troppi privilegi per extracomunitari. Prendi quando vai al pronto soccorso. Sì. Cosa succede al pronto soccorso? Codice bianco, quello degli italiani, è ultimo che entra. Entra prima codice giallo, quello dei cinesi. No, ma non è così. E in più codice bianco paga il ticket, il codice giallo non paga il ticket. E c'è discriminazione verso gli italiani. No. E tu non trovi però buonisti che ti dice questa verità, no? Capisci? Sì. Unica cosa buona dei cinesi è che ha voglia di lavorare, non come giovani italiani, che è tutti sfaticati giovani italiani. I cinesi lavora e poi va in giro in ordine come se non ha lavorato. Invece giovani italiani non lavora e poi va in giro con i pantaloni strappati come se ha lavorato. Questa è i cinesi che è la cosa buona. E sai quando è iniziato il problema di giovani italiani, Mina? Quando? Mina. Quando è iniziato il talent show, come il Grande Fratello. Parca, prima del talent show gli italiani sapevano che per vivere dovevi lavorare, darti da fare, partivi dal garage e poi ti mettevi in piedi la tua piccola impresa. Ma sai quanti sono partiti dal garage e hanno messo in piedi piccola impresa? Guarda che in Italia, se non c'erano i garage, in Italia piccola impresa non esisteva. E invece i giovani non vogliono passare le ore al garage, vogliono subito andare a fare l'aperitivo con i stuzzichini, la maionese, la salsa tornata, capisci? Anche tornata. Ma che, lasciami dire, Mina. Sì. Mina, anche Milano, te, quella che è là a Roma, no? Gentili. Che va sempre a fare aperitivo, apericena, di quelle cose. Al giorno d'oggi è difficile lavorare. Io per esempio, mio caso personale, ho messo in piedi una piccola impresa, mando via le mail per farmi pubblicità, ma non c'è nessuno che mi risponde alle mie mail. Secondo alcuni ho sbagliato il nome dell'impresa. L'ho chiamata spam. Che sembra spam. Ma no, scusi, spam. Sembra un bel colpo, spam. Ma no. E invece mi dico che arriva questa mail, arriva spam e non la guarda nessuno. Nessuno l'apre. Chissà perché. Se va avanti così, mi sa che devo andare a lavorare i cinesi. Non lo so. E perciò saluto tutti e ringrazio Radio 24 e la Confindustria che mi dà la possibilità di parlare e portare la voce vera degli italiani. Vera. E rispondete alle mie mail dell'azienda spam. Spam. Potete per favore. La voce degli italiani, eh? Potete per favore. O cambiare azienda, caro Battista, oppure risponde se mi arriva da spam. La mail è dell'azienda di è un nome non significativo. Ma cosa fate lì all'azienda Spam? All'azienda Spam facciamo, stiamo producendo una nuova macchina per caffè per uomini single. Sì. Che ha la forma di una femmina e quando esce il caffè parla con voce di donna e dice: sto venendo, sto venendo, sto venendo. No, ma mamma mia, ragazzi. Ragazzi. Cioè, così, questo. Quanti ne avete venduti? Due, credo. Al momento nessuno, perché facciamo vendita via email e nessuno allora risponde perché è spam. Spam. Allora. Signori, Leonardo Manera. Comunque. È bello spam, no? Per spam, un'azienda. Sì, bello. Spam è notevole come nome per un'azienda. Oh mamma mia, saluto ovviamente tutti gli ascoltatori, anche questo ascoltatore che mi vuole tanto bene, mi scrive: Milan, sei di una pochezza morale imbarazzante, grazie, buona giornata. Non so come faccia a sapere queste verità. Perché comunque, ti dice così? Non lo so, ma comunque lo ringrazio perché quando no, uno ma non riesce... per quello che dice la radio, ti avrà conosciuto di persona. Ma infatti dice, quando uno riesce in poche parole a centrare perfettamente deve essere le caratteristiche un tuo amico, secondo persona. Me è un amico caro. È perfetto. C'è Stefano che ci chiama da Bologna, credo che sullo Ius Soli, che è il tema un po' che ci accompagnato in tutta la mattinata. Stefano, buongiorno. Alessandro, eccoci. Io volevo aggiungere una cosa, secondo me, sul tema degli Ius Soli, che viene trattata sempre in maniera equivoca. L'opposizione degli italiani alla questione è una questione di risorse. Chi viene più colpito da un'immigrazione selvaggia non regolamentata sono le fasce più povere della popolazione. Chi ha già difficoltà oggi e si sente privato delle risorse del governo italiano, che non ha risorse, sì, che vanno a vantaggio dei migrati. No, sono due tematiche però diverse, che c'entra infatti con lo Ius Soli questo? Questo è una questione giusta, sì, ma per la verità anche il premier Gentiloni in un'intervista ha detto: è chiaro che sono due argomenti, l'immigrazione e lo Ius Soli, che hanno qualche punto di contatto, l'ha detto anche il premier, però sono non proprio, non sono i barconi. Però ce l'hanno più nella resa finale, nel risultato che ottieni, non tanto nello specifico dei provvedimenti, perché qui le risorse economiche sono molto relative. Sentiamo Stefano, perché le classi, diciamo, più disagiate dovrebbero temere questo? Mi spiego, ma questo sì, si collega poi a un argomento internazionale, si collega anche alla riuscita, al successo elettorale dell'SD in Germania dell'Est. Okay. Perché le persone vengono svantaggiate e si sentono minacciate? Un paese come l'Italia, che è in crisi dal 2009, dove la disoccupazione a livello statistico, misurata dall'Istat, è all'11%, che è un dato sottovalutato, sono dati falsi, e lo dice la BCE, perché non tiene conto dei sottoccupati, chi vorrebbe lavorare di più, sì, e non può, e non tiene conto dei svantaggiati. Va bene Stefano, è un'analisi molto complessa che a 15 secondi dalla sigla è un po' complicata, però la ringraziamo per il suo parere e magari riprenderemo il discorso.